I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Proprio nelle ore in cui Bruxelles si attende, entro domani, la lettera dell'Italia in cui il nostro paese articoli come intenderà correggere il deficit 0,02%, ossia correggerlo per 3,4 miliardi di euro, è arrivata ieri una notizia che riguarda sempre un paese che non rispetta gli accordi europei, ma in questo caso si chiama Germania. Si è scoperto infatti che nel 2016 la Germania è tornata ad essere il primo esportatore al mondo con un surplus commerciale, la differenza tra quanto esporta e quanto importa, a vantaggio delle esportazioni per quasi il 9% del PIL. Ora intendiamoci, bravi tedeschi se riescono ad avere numeri di questo genere sulle esportazioni, ma attenzione perché all'interno degli trattati europei per la nascita dell'euro si è sempre scritto e detto che i paesi non dovevano superare un certo livello di deficit, il famoso 3%, ma anche che i paesi non potevano avere un avanzo commerciale troppo alto, tant'è che l'Unione Europea considera un avanzo commerciale pari al 6% del PIL, il livello massimo per essere sostenibile in un lungo periodo, perché questo avrebbe rappresentato uno squilibrio oggettivo dentro un'area dalla moneta unica. Ebbene, la seconda parte di questa regola, fondamentale quando si agisce in un mercato unico con la stessa valuta, è stata sempre disattesa, a meno che a breve non arrivi una lettera alla Germania invitandola a correggere questo squilibrio che va avanti da molti anni. È un'ipotesi, probabilmente irrealistica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto nel mese di gennaio l'1,8%, in netto rialzo rispetto all'1,1% di dicembre, al di sopra delle aspettative dei mercati che si aspettavano 1,6%. È una buona notizia, è una cattiva notizia? Per noi italiani è un po' l'una e un po' l'altra. Significa che l'economia europea dà segni di risveglio importanti e va sottolineato che la performance del PIL dell'Europa è superiore a quella degli Stati Uniti, con una crescita dell'1,8 contro l'1,6 degli States, e questo naturalmente è un bene. Ma significa anche che è più vicino l'obiettivo di inflazione della BCE, che è un tasso vicino ma al di sotto del 2%, e che quindi è più vicina all'interruzione di acquisti di bond sovrani da parte della Banca Centrale Europea, il fatto che finora ha tenuto a bada lo spread dei paesi più fragili come appunto l'Italia. E questo naturalmente per il nostro paese sarebbe un problema, perché i tassi risaliterebbero e diventerebbe più costoso il servizio del debito in un momento in cui Bruxelles mette in discussione la tenuta stessa dei nostri conti e la sostenibilità del nostro debito pubblico, argomento peraltro su cui salta a pie pari la speculazione che scommette sull'uscita dell'Italia dall'euro. I tedeschi, che hanno un tasso di inflazione dell'1,9%, aumentano gli attacchi e la pressione su Mario Draghi, accusato di voler continuare nel suo programma di politica monetaria espansiva per aiutare proprio i paesi più fragili. Il presidente della BCE però ha più volte sottolineato che la vera inflazione da monitorare è quella depurata dagli effetti dei prezzi del petrolio, che è infatti ferma allo 0,9%, quindi ben lontana dagli obiettivi della Banca Centrale. È probabile che fin dalla prossima riunione di marzo la BCE sia però costretta ad affrontare il tema della riduzione degli acquisti e della fine del cosiddetto QE, il quantitative easing europeo. Per l'Italia è un campanello d'allarme perché acceleri le riforme che finora non ha mai fatto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.